Al telefono abbiamo Emidio Clementi, ovvero Mimì. Ciao Mimì, come va? Bene, ciao Andrea, ciao chi ci ascolta. Bene, allora siamo vicino alla data fatidica, venerdì 13, per lo spettacolo Perché io non spero più di ritornare, ma indagando un po' sui social, quindi non so se sia vero oppure no, ho visto che ci sono state delle altre date, una a Milano se non sbaglio e poi una a Lugano. Ma quella a Milano in realtà era una prova aperta. Ah. Abbiamo fatto una residenza al Teatro degli Angeli in cui abbiamo messo a punto lo spettacolo e poi c'è stata una prova aperta con il pubblico. E quella di Lugano possiamo considerarla un'andata a zero, addirittura all'estero. L'estero per modo di dire, dai. Ah no, secondo me Lugano è più estero di quello che sembra. Addirittura, sì. Sì, ho capito. Sì. Senti, ma quanto, visto che ne stiamo parlando, quanto lavoro c'è stato dietro a questa rappresentazione che vedremo venerdì 13 all'Arena del Sole? Beh, abbastanza, Andrea, perché si consideri, vabbè, c'è stato un lavoro sui pezzi e sui dischi che sono usciti e, sì. e le letture, i reading che abbiamo fatto in giro. Poi c'è stato un lavoro di drammaturgia, perché dovevamo, per portarlo in teatro, dovevamo ricreare una linea conduttrice, uno sviluppo drammatico. E c'è stato poi un lavoro di regia, di luci, parlo anche per gli altri, poi per lo scenografo, per il regista, per Giulia Selta che ha curato la drammaturgia, per noi che comunque abbiamo dovuto preparare uno spettacolo nella sua gestualità, nelle sue pause, nei suoi ritmi, e quindi abbastanza ci ha impegnato. Ma è stato, se penso poi ai giorni di Milano, sono stati giorni molto belli, creativi, di un certo verso anche nuovi, perché sì. Corrado aveva avuto già delle esperienze in teatro, per me era proprio la prima volta, tolto le date che avevamo fatto con il massimo volume. Mi ricordo, c'ero. Sì. A tiro di Covid più o meno per esatto, il nuotatore, esatto. Sì. Esatto. Ma io ti volevo chiedere anche, questo titolo ha un significato, quindi se ce lo potevi dire, perché io non spero più di ritornare. Sì, qualcuno ci ha contestato che è troppo lungo, però potevi mettere solo ritornare, basta. Però è proprio la cosa interessante del titolo, è proprio quella, l'ambiguità che c'è, perché non si capisce esattamente se c'è un desiderio o meno di ritornare. E nel mettere insieme Shepard, sì. Carnevali, Elliot e anche delle pagine del mio L'ultimo Dio, era evidente che tutti e quattro contengono un senso di spaesamento. Tutti scrittori, io un po' mi vergogno, dico la verità, a paragonarmi agli altri, però che hanno trovato la propria voce espressiva nello spaesamento, nell'andarsene da casa. Sì. E allora quel senso di sia di spaesamento, ma anche di ambiguità e di contraddizione che c'è nel titolo, secondo me si sposava molto bene all'idea dello spettacolo. Poi essendo anche un verso in origine di Cavalcanti, però ripreso da Elliot nel Mercoledì delle Ceneri, ci sembrava il titolo giusto. Okay. Anche se non immediato. Sì, no, vabbè. Comunque sono molto curioso di come metterai in scena questi tre lavori, che ricordiamo sono quattro quadretti, Motel Chronicles e Notturno Americano. Cioè andrai in ordine cronologico, seguirai un'atmosfera, un argomento, cioè come avete deciso? Uno spoiler. Ci sono dei temi, dei punti che vengono toccati, che diciamo che la linea guida la dà il mio L'ultimo Dio, possiamo dire che sono degli affluenti. L'idea era quella che le voci un po' tendessero, ognuno con la propria identità, ognuno con i propri luoghi, però che andassero un po' a confondersi, o meglio che ognuno desse il proprio punto di vista su determinati argomenti. E va bene, adesso sai, chissà, però vista una prova aperta a Milano, poi parlando a fine spettacolo col pubblico, con gli amici che sono venuti a vederlo, sembra che questa idea insomma sia abbastanza evidente anche nello spettacolo, cioè che non è qualcosa messo, ecco, chiaro solo per noi che siamo in scena e per il regista, ma che è abbastanza evidente. Insomma, questo ci tenevamo, perché sai, poi la comunicabilità, l'essere comunicativi, cioè l'ho sempre messo al primo posto, quindi spero che le cose si capiscono abbastanza. Ecco, anche a livello musicale, ho visto siete in quattro, c'è anche Francesca, sì, Bono e Emiliano, sì, Reverberi, e quindi sarai fedele a quello che avete fatto su album, quindi diciamo notturno americano un po' più minimale, insieme anche Quattro Quadretti, mentre Motel Chronicles diciamo che è un po' più orchestrato, oppure hai rivisitato anche le musiche? Direi una via di mezzo, nel senso che sono stati un po' rivisitati, penso specialmente ai Quattro Quartetti, che okay, nei Quattro Quartetti è stato un progetto proprio autarchico, eravamo solamente io e Corrado, e la musica è composta tutta da Corrado, e anche la maggior parte con l'elettronica, però qui avendo sia Francesca che Emanuele l'abbiamo resa più acustica di quello che è nell'originale. Su Notturno Americano e Motel Chronicle direi che siamo stati fedeli, piuttosto fedeli all'originale. Ok, ti chiedo se seguirà un tour nei teatri dopo l'Arena del Sole, se farete un tour. Sì, spero di sì, vediamo, il mondo dei teatri è diverso da quello, mi sembra, da quello dei rock club. Quindi ci sono tempi di attesa più lunghi, però la speranza e l'idea è quello di portarlo un po' in giro, se escono fuori, se c'è la possibilità di farlo a teatro. Okay. Mi sembra più difficile pensarlo in un rock club, sia per la scenografia, sia anche perché è uno spettacolo che se qualcuno si annoia a teatro implodi in te stesso, giustamente. In un rock club magari vai a prenderti una birra, così però non ci può essere del brusio. Ecco, questo segue un'altra domanda. Innanzitutto, una cosa carina: quando ho detto che intervistavo Mimì, mi hanno risposto: ah, quella che ha vinto X Factor. Quindi ho visto, adesso sono una rivale. Porca esatto. Comunque, siamo in un periodo, diciamo, in cui va di moda la semplicità. Tu invece ti ostini in tutti i tuoi progetti ad essere piuttosto cervellotico. Ecco, non ti senti un po' fuori dal gruppo? Cosa ne dici? No, però Andrea, cioè nel senso, anche penso quando anche nell'insegnamento della scrittura in accademia, sì, con i ragazzi, sì, punto sempre al primo posto, mettiamo sempre la semplicità. Okay. E anche poi anche nelle pagine che scrivo è proprio una ricerca sempre della, poi se è vero, ma ormai la lettura è diventato qualcosa di paradossalmente, non so se dire complesso, però è un linguaggio che fa fatica adesso, no? Con tutta, sì, dico delle banalità, però con tutte le immagini, ormai è tutto per immagini, la scrittura è tutto molto fatica. Immediato, quindi se la scrittura richiede un certo un po' di fatica, ne subisce le conseguenze. Sì. Cioè, leggevo, in realtà era una tesi di un mio studente, diceva che fino a non tantissimi anni fa, qualche secolo fa, uno nella propria vita vedeva una cinquantina di immagini, nella propria esistenza, vedeva un quadro, vedeva, no, però era una cinquantina, e adesso sono centinaia di migliaia ogni, sì, giorno. Sì, esatto. Sì. Quindi sono cifre sorprendenti. Ok, ultima, poi ti lascio, la pentola dei Massimo Volume è sul fuoco, bolle qualcosa, noi siamo sempre legati al tuo progetto, se vogliamo, principale, non so se lo... Siamo, diciamo che adesso c'è Vittoria, che non so se sta per entrare in studio, però fra poco farà il secondo disco con Francesca Bono. Ah, ok, sì. Io adesso sono stato impicciato con Diciamo che siamo a fuoco lento, ma poi ci sarà il momento in cui ci ritroviamo e penseremo di fare qualcosa. Adesso c'è un momento un po' così. Vabbè, abbiamo suonato poi al premio Ciampi la settimana scorsa. Ah, è vero, giusto, sì, premio alla carriera, sì. Porca miseria. Una bella emozione, cioè anche il premio in sé. Il premio che ti dai vecchi. Non lo volevo dire, però... Però, no, ci sta tutto, dai, avete segnato, cioè e segnate ancora. A proposito, uno dei miei pezzi preferiti viene dai Massimo Volume 2, se li vogliamo chiamare così, ed è La notte, che nel mio piccolo ha influenzato quello che scrivo pure io. Mi parli un po' di questo pezzo, che per me è spettacolare, come introduce i personaggi, le pennellate, le fotografie, è molto bello. Se mi puoi dire qualcosa di più e poi ti lascio andare. Adesso è un po' di anni fa che l'ho scritto e forse avevo in mente qualcosa di già, forse ho preso spunto proprio nel ritmo, però mi piaceva qualcosa appunto che comparissero molti personaggi in un gesto, in qualcosa, in una descrizione che fosse velocissima e creassero un po' un affresco, quello mi piaceva, anche perché era dettata, avevamo già quella... musicalmente era già, quando ho scritto il testo era già, avevamo già la musica, uh-huh. E quella musica così bella, ritmata, mi ha invogliato a creare tanti piccoli quadri. Questo bellissimo. Dentro ci ho messo due o tre chicche anche di persone a me vicine, mi piaceva anche renderle omaggio. Bene, Mimì, ci vediamo il 13 e che ti devo dire? Vuoi aggiungere qualcosa? No, vabbè, aspetta, anche a te ti aspetto anche se c'è qualcuno tra il pubblico. Speriamo di dare, no, ma daremo il meglio di noi stessi. Sarà sicuramente un bello spettacolo, dai. Va bene, mettiamo Portavo il ghiaccio a Nina Simone e poi appunto all'Arena del Sole, perché io non spero più di ritornare, spettacolo appunto il 13 di dicembre. Ciao Mimì, grazie. Grazie a te, grazie a voi.